è un figlio del vento, vive in mare, respira il tempo. Andy non parla mai e i suoi silenzi sono anche i miei. Andy ha il mal di terra, Andy non ha una culla, né posto dove posare i suoi piedi, il suo cuore. Come un angelo vola sulle acque del cielo, Andy ha un lupo di mare quando alza le vele. Mezzo uomo, mezzo delfino, mozzo del suo destino, Andy ha lasciato in un treno i suoi bagagli ed ogni freno. Andy naviga tanto, ma non conta le ore. Andy cucina a bordo insalata di sole. Quando arriva in un porto pensa solo a partire. Andy ama il suo mondo come un pesce del mare. Come un angelo vola sulle acque del cielo, Andy ha un lupo di mare quando alza le vele. Mezzo uomo, mezzo delfino, mozzo del suo destino, Andy ha lasciato in un treno i suoi bagagli ed ogni freno. In ogni uomo c'è un Andy, come una radio interiore. Chi l'ascolta lo segue senza fare rumore. Andy traccia la rotta guardando le stelle. Andy si fida del vento e non conosce mai il pianto. Come un angelo vola sulle acque del cielo, Andy ha un lupo di mare quando alza le vele. Mezzo uomo, mezzo delfino, mozzo del suo destino, Andy ha lasciato in un treno i suoi bagagli ed ogni freno. Sembra che l'hanno visto navigare nei mari del sud. Una cosa so di certo, Andy ha un'anima blu, occhi a forma di pinne, mani che sembrano remi. Andy, lupo del mio cuore, la tua vita un'onda del mare. Come un angelo vola sulle acque del cielo, Andy ha un lupo di mare quando alza le vele. Mezzo uomo, mezzo delfino, mozzo del suo destino, Andy ha lasciato in un treno i suoi bagagli ed ogni freno. Come un angelo vola sulle acque del cielo, Andy ha un lupo di mare quando alza le vele. Mezzo uomo, mezzo delfino, mozzo del suo destino, Andy ha lasciato in un treno i suoi bagagli ed ogni freno.